Siamo col direttore Walter Malosti. Quali sono le caratteristiche della nuova stagione teatrale dell'Arena? Ah beh, l'Arena, diciamo che le stagioni saranno rivelate a fine giugno. Adesso noi abbiamo messo fuori, diciamo, una serie di nomi, di artisti, alcuni progetti ovviamente li abbiamo svelati oggi, come ad esempio Lazarus di David Bowie con Manuel Agnelli, ma molti altri, di molti altri abbiamo soltanto gli artisti che producono questi spettacoli. È una scelta, diciamo, l'anno scorso abbiamo fatto questi abbonamenti al buio. L'Arena è un po' trasformata, come avete visto, anche il chiostro ha continuato a vivere anche d'inverno. Vedrete che il bar sarà portato poi a fianco del chiostro, vi useremo anche la terrazza sopra. Insomma, vorrei che l'Arena, diciamo, fosse un teatro, l'Arena del Sole fosse un teatro che rimane aperto sempre alla cittadinanza. È molto bello quando alla sera arrivo e vengo a vedere degli spettacoli e dentro al chiostro c'è gente che non viene a vedere gli spettacoli, degli studenti che chiacchierano, delle signore che bevono un bicchiere di vino. Lo trovo bellissimo, perché poi non è detto che quelli vengano a teatro, non importa, ma intanto capiscono che il teatro è un luogo di tutti, che appartiene a tutti. Questo vorrei che fosse l'Arena del Sole. Un verso di David Bowie fa da manifesto alla stagione 22-23. Lavorando alla traduzione di Lazarus, che è un progetto segreto che stavo coltivando da alcuni anni, mi sono imbattuto in questi versi. Changes per tutti noi è una canzone leggera, no? È una canzone complessa dal punto di vista musicale, ma il retrogusto che ne viene fuori è un retrogusto leggero da canzone pop, no? E invece dentro contiene una serie di, come in tutte le canzoni di Bowie, tra l'altro i testi di Bowie non siamo solo noi che non li capiamo, sono, diciamo, anche come Shakespeare e come il nostro Dante. I testi di Bowie sono misteriosi anche per gli inglesi stessi. Lui non ha mai rivelato i contenuti, che cosa volessero significare le sue canzoni, ma in Changes c'è questa cosa importante che è legata al mutamento, al cambiamento e anche a non aver paura di affrontare l'ignoto, che è anche il diverso, l'insolito. Bowie rappresenta per tantissimi ragazzi e ragazze della mia epoca anche il coraggio di uscire allo scoperto, no? Per quanto riguarda l'orientamento sessuale o anche semplicemente la voglia di mostrare la propria diversità senza problemi. E quindi Bowie raccoglie in quella canzone tante cose insieme. E questo Turn and Face the Strange, che io ho tradotto ignoto, cioè voltati, affronta l'ignoto, come dicevo anche in conferenza stampa, potrebbe essere anche l'insolito, il diverso, accogli anche forse tutto quello che ti arriva, che non è esattamente una cosa che conosci. Tanto quando ti volti indietro, come dice nella canzone, non ti trovi, perché sei già cambiato l'istante in cui provi a cercare. Che è un po' la direzione che vuole dare alla sua Earth. Sì, vorrei che le persone che vengono qui a trovarci siano colte in qualche modo di sorpresa, ma che comunque abbiano sempre la sensazione di trovarsi di fronte a una cosa di grande qualità. Quindi, anche se non la capiscono, cosa che sarà difficile quest'anno secondo me, abbiano comunque la sensazione di qualcosa di interessante in cui uno si può anche lasciare andare, una cosa a cui uno può abbandonarsi. Tornerà Vie Festival e una rassegna dedicata alla danza che si chiama Carne. Sì, Vie Festival ritorna gloriosamente e finalmente dopo due anni di silenzio dovuti al Covid. Se devo scegliere dal mazzo una cosa da vedere, sicuramente abbiamo il grandissimo maestro polacco che è Christian Lupa, che tra l'altro è maestro di tantissimi altri grandi registi internazionali come Warlikowski ad esempio, che presenta un affresco meraviglioso dagli anni 60 ma fino a oggi. È un mélange tra l'altro di teatro, di cinema, di documento, con una caratteristica bellissima, perché Lupa interviene durante il testo e durante lo svolgimento dello spettacolo parlando agli attori, parlando al pubblico. Insomma, è una cosa curiosissima, dalla durata è monumentale perché dura 6 ore e 20. Tante coproduzioni, tanti artisti ospitati, ci sarà anche un progetto per il centenario di Pierpaolo Pasolini. Prima, mentre parlavo, ho dimenticato di parlare di Carne, questo progetto curato da Michela Lucenti sulla drammaturgia fisica, che appunto contiene anche qui grandi maestri, ma anche molte nuove personalità nell'ambito della danza. Il progetto dedicato a Pasolini è anche qui un progetto che intreccia i generi, gli stili, è un progetto che nasce ovviamente dagli spettacoli teatrali, quindi dalle sue 6 tragedie scritte a partire dal 66, che sono quasi mai rappresentate in Italia e che saranno soprattutto raccontate a noi dallo sguardo dei giovani, giovani registi, giovani interpreti. A questo sguardo, diciamo, giovane si abbina anche invece uno sguardo di alcuni maestri, come Stanislas Nordet, che curerà un percorso sull'alta formazione, e diciamo anche uno sguardo ulteriore a quelle che sono le radici di Pasolini, cioè a Roberto Longhi, e anche qui attraverso dei giovani critici d'arte andare a reperire le fonti dell'ispirazione pasoliniana, ma non solo, c'è anche nuove scoperte, nuovi autori naturalmente visivi. Grazie. Grazie a voi.